i vestiti nuovi dell'imperatore. Come al solito, l'imperatore si stava ammirando allo specchio. Sono davvero elegantissimo, non è vero? Chiese al primo ministro. Ma certo, eccellenza, confermò il primo ministro. Lo dicono tutti, siete l'imperatore più elegante del mondo. D'improvviso l'umore dell'imperatore cambiò. E adesso come faccio? Mugolò. La prossima settimana c'è il corteo imperiale e io non ho niente da mettermi. Il primo ministro si guardò in giro con aria perplessa. C'erano vestiti nuovi sparsi ovunque, sul pavimento e su tutti i mobili, sulle poltrone così come sui tavoli. Ma prima che potesse proferir parola, si sentì bussare alla porta e un valletto fece entrare due visitatori. Chi siete? Chiese l'imperatore. I nuovi arrivati fecero un inchino. Eccellenza, disse uno di loro, siamo venuti a offrirvi i nostri servizi. Il suo socio si fece avanti. Confezioniamo dei vestiti meravigliosi con una stoffa specialissima che tessiamo noi stessi, disse. Io ho già i miei tessitori e i miei sarti, rispose l'imperatore. Cosa vi fa pensare di essere migliori di loro? Le persone più chic del mondo dicono che la nostra stoffa sia la più bella che abbiano mai visto, si vantò il primo tessitore. E si dice che voi abbiate un gusto eccellente, aggiunse l'altro. Ma non è tutto, continuò il primo. La nostra stoffa ha una dote particolare che potrebbe essere utile a vostra eccellenza. La nostra stoffa è totalmente invisibile agli occhi di chi è troppo stupido per vederla, dissero in coro. L'imperatore era sbalordito. Straordinario, esclamò. Devo assolutamente avere un completo fatto con la vostra meravigliosa stoffa. Riuscite a confezionarmelo in tempo per il corteo imperiale? Certamente, eccellenza, risposero con un altro inchino. Non ci serve altro che una stanza dove poter lavorare e un anticipo per coprire le spese. Una tecnica specializzata come la nostra non costa certo poco. Non mi importa quanto costerà, esclamò l'imperatore. Primo ministro, dai a questi signori tutto ciò di cui hanno bisogno. Poi li mandò via tutti per poter decidere in santa pace che cosa indossare per il pranzo. I tessitori ricevettero due scrigni pieni di denaro e un laboratorio a palazzo dove sistemarono due grossi telai di legno. Nel laboratorio dei tessitori la luce rimase accesa tutta la notte. L'imperatore moriva dalla voglia di vedere la stoffa che stavano tessendo, ma non riusciva a vedere altro che le loro sagome, tutte intente all'opera. Col passare dei giorni, l'imperatore diventava sempre più curioso di sapere come procedeva la tessitura della stoffa. Alla fine mandò in avanscoperta il primo ministro. Quando questi arrivò, i tessitori gli fecero un gran sorriso e lo invitarono a entrare per ammirare la loro opera. Guardate questo motivo, disse uno indicando il telaio. È fine e intricato come una tela di ragno, non vi pare? Il primo ministro guardò il telaio con un'espressione di terrore. Non ci posso credere, pensò, io non vedo neanche un filo. Vedete come questi toni dorati brillano come il sole e questo azzurro scintilla come il Mar d'Arabia? Disse il secondo tessitore con un luccichio malefico negli occhi. Il primo ministro si sfregò gli occhi e guardò di nuovo, ma per quanto si sforzasse non riusciva a vedere proprio nulla. Non devo dire a nessuno che non vedo la stoffa, pensò. Se l'imperatore pensa che io sia stupido, addio lavoro. Come siete silenzioso, commentò uno dei due. Non vi piace? Io non sono un esperto, ma sono certo che l'imperatore sarà molto soddisfatto, balbettò il primo ministro. Ma ho un corteo imperiale da preparare, non ho tempo di stare a discutere. E detto questo, si precipitò fuori. Quando il primo ministro arrivò nella stanza del trono, l'imperatore stava camminando su e giù, roso dall'impazienza. Allora, l'hai vista? Gli chiese. Com'è? Eccellenza. È una cosa mai vista prima, rispose lui guardandosi i piedi. Bene, bene, ma dimmi che aspetto ha, insisté l'imperatore. Beh, ha un motivo intricato come una tela di ragno. I toni dorati brillano come il sole e l'azzurro scintilla come il mare, cominciò con una certa esitazione. Vostra Maestà, il completo nuovo sarà di una bellezza incomparabile, concluse. L'imperatore batté le mani per la gioia. Adesso non vedeva l'ora che si svolgesse il corteo imperiale. E non era l'unico. Ormai si era sparsa la voce che il vestito nuovo dell'imperatore sarebbe risultato invisibile agli stupidi e tutta la città era in agitazione. 2 giorni prima del corteo, l'imperatore decise di mandare un altro dei suoi funzionari a controllare a che punto fosse la stoffa. Questa volta scelse il secondo per importanza e fiducia accordatagli, il suo sarto. Quando gli mostrarono i telai, il sarto strizzò gli occhi dietro gli occhiali. «Cielo, non vedo niente!» esclamò. «Ma sono un po' miope!» si affrettò ad aggiungere. «Venite a vedere più da vicino!» lo invitò uno dei tessitori. «Secondo il vostro parere professionale, non è forse la stoffa più straordinariamente unica che abbiate mai visto?» chiese l'altro. Il sarto si avvicinò per guardare meglio, ma continuò a non vedere neanche un filo. Sconcertato, si tolse gli occhiali, li pulì con un fazzoletto e se li rimise, ma continuava a non vedere proprio niente sui telai. «Perderò il lavoro se si saprà che non vedo la stoffa», pensò in preda al panico. E allora disse ai tessitori: «Non c'è dubbio, siete dei veri maestri della vostra arte», e così dicendo si precipitò dall'imperatore. Allora chiese questi con impazienza: «Dimmi com'è!» «Eccellenza, non ci sono parole per descrivere l'incredibile bellezza della stoffa», disse imbarazzato il sarto. «Secondo il mio parere professionale è assolutamente unica». «Sarò bellissimo nel mio vestito nuovo!» esclamò l'imperatore, saltellando dalla gioia. Il mattino dopo i tessitori gli mandarono un messaggio per dirgli che la stoffa era pronta e lo invitarono a venire a vederla, così da poter prendere le misure per il vestito. Senza por tempo in mezzo, l'imperatore attraversò di corsa il giardino del palazzo, seguito a fatica dai suoi consiglieri. Quando arrivò al laboratorio era tutto rosso e senza fiato. I tessitori si inchinarono e gli aprirono la porta per farlo accomodare. «Eccellenza, che onore!» dissero. «Entrate, prego!» «Modestia a parte, è l'opera migliore che abbiamo mai creato», disse uno dei due, mostrandogli i telai. «Non la ritenete la stoffa più bella che abbiate mai visto?» chiese l'altro. L'imperatore guardò e rimase senza parole, sgomento. Non vedeva proprio niente su nessuno dei due telai. Balbettò. «Eccezionale!» suggerì il sarto. «Magnifica!» aggiunse il primo ministro. Per un attimo gli altri funzionari fissarono i telai in un silenzio imbarazzato, mentre ciascuno di essi si chiedeva se fosse il solo a non riuscire proprio a vedere la stoffa. Ma siccome nessuno di loro voleva ammettere di non vedere nulla, in breve si unirono al primo ministro e al sarto in un coro di «Stupenda! Meravigliosa! Divina!». L'imperatore continuava a fissare i telai e a non vedere la stoffa. «Non ci posso credere», pensò. «Sono l'unica persona troppo stupida per vedere la stoffa? È la cosa peggiore che mi sia mai successa». Per nascondere il suo imbarazzo, l'imperatore alla fine affermò: «È assolutamente splendida, la adoro!» E poi, stendendo le braccia, aggiunse: «Prendete le misure, voglio che domani il vestito mi vada a pennello». «Certo, eccellenza!» rispose uno dei tessitori, tirando fuori il metro. «Ovviamente avremo bisogno di altri soldi per spilli, aghi, bottoni e guarnizioni per completare il vestito», aggiunse l'altro mentre prendeva nota delle misure dell'imperatore. «Certo, certo, ve li farò avere immediatamente», acconsentì subito l'imperatore. Poi se ne andò per lasciarli lavorare. La luce rimase accesa tutta la notte, così tutti poterono vedere le loro sagome intente all'opera. I due ritagliarono dei modelli, tagliando l'aria con dei forbicioni, e cucirono usando aghi senza filo. Il giorno dopo l'imperatore si svegliò prima dell'alba, agitatissimo ed emozionatissimo. Iniziò a camminare su e giù per la stanza in attesa dell'arrivo dei tessitori con i suoi nuovi vestiti. Dopo un tempo che gli sembrò lunghissimo, finalmente i tessitori arrivarono con un grande baule di cuoio e un'aria molto soddisfatta. «Il completo è pronto», annunciarono. «Allora, cosa aspettate?» gridò l'imperatore. «Aiutatemi ad indossarlo!» Così i due furfanti aprirono il baule e con gesti esagerati cominciarono a fingere di estrarre vari indumenti per farli indossare all'imperatore. «Ecco la camicia», disse uno. «La stoffa è così leggera che sembra quasi di non avere niente addosso, non vi pare?» «E i pantaloni», disse l'altro imbroglione. «Guardate questa sinfonia di rosso intenso, viola carico e righine d'oro!» «Allora, come sto?» chiese l'imperatore. «Elegantissimo», lo adulò il sarto. «Assolutamente maestoso», aggiunse il primo ministro con entusiasmo. I tessitori sistemarono un immaginario mantello sulle spalle dell'imperatore, poi fecero un passo indietro come per ammirare il proprio lavoro. «Il completo vi sta a pennello», dissero. «Al corteo sarete così splendido che il popolo parlerà di voi per anni e anni». Fuori dal palazzo le strade erano affollatissime. Il popolo acclamava l'imperatore, impaziente di vederne i vestiti nuovi. C'era chi sventolava bandiere dalla finestra e chi si era persino arrampicato su un albero per vedere meglio. Con una gran fanfara, l'imperatore e i suoi funzionari uscirono dal palazzo. Rimasero tutti senza fiato. Poi qualcuno gridò: «Evviva i vestiti nuovi dell'imperatore!» e dalla folla provenne un'ovazione entusiastica. Ovviamente non vedevano niente, ma nessuno osava ammetterlo. In breve, le strade risuonarono di un coro di lodi per i fantastici vestiti nuovi dell'imperatore. «Il taglio è perfetto!» gridò uno. «Che stoffa incredibile!» esclamò un altro. «Lo strascico è superbo!» aggiunge un terzo. L'imperatore scoppiava d'orgoglio. «Questi vestiti sono proprio un successone!» pensò, e scese le scale del palazzo con passo ancor più lesto. Un bambino, che era finito dietro la folla, cominciò a tirare la manica del padre. «Papà, per favore, mi prendi in braccio, così vedo anch'io?» Così il padre se lo mise sulle spalle. Appena visto l'imperatore, il bambino emise un gridolino di stupore. «L'imperatore non ha niente addosso!» strillò con una vocina acuta. La folla mutolì. Il padre del bimbo disse all'orecchio della moglie: «Il bimbo ha ragione, l'imperatore è proprio nudo come un verme!» Una donna lì accanto li sentì e bisbigliò qualcosa all'orecchio della sua vicina. E in un baleno quel bisbiglio si sparse per tutta la folla come un incendio. Il bisbiglio divenne un mormorio e il mormorio si trasformò in un boato. Di lì a poco tutta la folla si mise a cantare. «L'imperatore non ha niente addosso!» L'imperatore si guardò. «Hanno ragione», pensò, e arrossì da capo a piedi. «Ma non ho scelta, devo continuare. Questo è il corteo imperiale e io sono l'imperatore». E a testa alta proseguì la sua marcia. «Questo è il corteo più bello del mondo», gridò il bambino. Tutti furono d'accordo e gli applausi divennero sempre più forti. In tutta quella confusione nessuno notò i due imbroglioni che se ne scappavano per le stradine laterali con le borse piene dei soldi dell'imperatore. Nessuno li vide mai più, ma una cosa che avevano detto si rivelò proprio vera. Il popolo parlò di quel corteo imperiale per anni e anni.